Lo scopo, ora il titolo è un po' elaborato, comunque lo scopo poi della comunicazione, espresso in maniera più semplice, forse lineare, è quello di fornire una carrellata molto elementare, necessariamente molto rapida, degli atteggiamenti dei giuristi italiani e in particolare dei giuristi di diritto pubblico, dei giuristi che sono occupati del problema delle rappresentazioni del potere, che sono più interessanti, più credo stimolanti, dell'atteggiamento appunto di questi giuristi nei confronti della modernità. Prima di entrare in tema, si impongono alcune riflessioni di carattere, ma diciamo così, metodologico, la parola è grossa, in realtà, diciamo artigianalità storiografica. Prima di tutto, il giurista non costituisce una categoria iscritta all'anagrafe in maniera precisa, o magari costituisce una categoria nell'Ottocento iscritta all'anagrafe, ma è una figura polivalente, cioè svolge molte funzioni. Il giurista è il gran commis, il giurista è il legislatore, il giurista siede molto spesso nelle aule legislative, il giurista è il burocrate, il giurista è il giudice, il giurista fa tante cose, no? Il giurista è anche il filosofo, è il teorico, è tutto questo. È il politico. Ecco, come identificare in maniera precisa la specificità del giurista rispetto a tutte queste funzioni che socialmente gli sono imputate, che socialmente svolge, direi, sia nei sistemi d'antico regime che nei sistemi ottocenteschi? Occorre riferirsi a un criterio sostanziale. Il giurista è veramente giurista e è di questo che vorrei parlarvi, nel momento in cui non lo vediamo intento a progettare, a costruire un'azione politica, a individuare un tema legislativo, a elaborare dei grandi principi filosofici. Tutto questo lo fa, diciamo così, fuori dalla sua professione essenziale, dalla sua attività fondamentale, la quale è invece quella di qualificare giuridicamente la realtà, cioè di elaborare modelli di legittimazione. La vera attività, l'attività specificamente giuridica del giurista non consiste nel manipolare la realtà, ma nel legittimarla, nel dare a questa realtà un significato giuridico, di prenderla per com'è e di metterla in rapporto a certi principi di carattere generale che hanno lo scopo di legittimarla dal punto di vista formale. Una seconda avvertenza indispensabile è che i giuristi dell'Ottocento sono ancora oggi una realtà poco studiata. La storia del diritto è una scienza essenzialmente fino a pochi anni fa, diciamo pure fino a un paio di decenni fa, essenzialmente medievistica. Dell'Ottocento giuridico e in particolare dell'Ottocento del diritto pubblico noi conosciamo discretamente alcuni spezzoni, soprattutto diciamo gli ultimi 20-30 anni. Al momento cioè in cui viene formalizzata, viene costituita una vera e propria scuola accademica di diritto pubblico in Italia, che per il resto del periodo invece non esiste, del resto dell'Ottocento conosciamo alcune figure, ecco, alcune piccole isole, ma manca ancora al momento, allo stato attuale delle ricerche, una immagine di tipo complessivo. Quindi anche la mia relazione sarà forzatamente incentrata su alcuni esempi, su alcune figure, senza la pretesa di offrire e nemmeno la possibilità di offrire una panoramica di carattere esaustivo. Terzo problema, relativo alla specificità del tema trattato. Il giurista, a differenza dello storico, e in parte anche del politico o del filosofo, non è professionalmente tenuto a raccontarci che cosa pensava del passato. E anche quando lo fa, a noi tutto sommato interessa poco, fino al momento in cui questo racconto, questa immagine del passato, non diventa un momento fondante, un momento essenziale di questa sua operazione, di questo suo lavoro di legittimazione, di produzione di validità formale. Il giurista molto spesso è un erudito, ma le opinioni dell'erudito giurista a noi non interessano, sono opinioni che hanno la validità di un qualunque altro erudito o di un qualunque altro storico. Quindi quello che credo dobbiamo fare è di ricostruire alcuni modelli del lavoro dei giuspubblicisti ottocenteschi, cercando di individuare nell'ambito di questi modelli qual è il ruolo che svolge l'età moderna, in modo appunto da dare un significato pregnante a queste immagini del moderno nella giuspubblicistica ottocentesca. Prima ancora di, e mi scuso di questa ulteriore premessa, di aggredire il nocciolo del problema, è assolutamente indispensabile affrontare la questione della periodizzazione tra moderno e contemporaneo nell'ambito del pensiero giuridico. Qual è la differenza tra un giurista d'antico regime e un giurista contemporaneo, un giurista ottocentesco? Che cos'è che connota in maniera precisa questi due universi concettuali e qual è il vero confine, se è possibile tracciare questo vero confine tra antico regime e ottocento. Gli indicatori possono essere infiniti, io ve ne propongo uno che a me sembra abbastanza significativo, anche se poi non integralmente soddisfacente, comunque perlomeno come ipotesi di lavoro penso che possa andare. La differenza è che il giurista ottocentesco concepisce l'ordinamento generale in cui si colloca, cioè l'ordinamento politico, l'ordinamento statale, come una persona giuridica unitaria, cioè come un soggetto di diritti e di doveri, secondo una declinazione che è ancora oggi comune nello stesso linguaggio sia dei giuristi sia anche nel linguaggio corrente, nel linguaggio giornalistico, dei media, eccetera. Lo Stato come soggetto che produce leggi, che amministra, che espropria il privato, che contratta, che è responsabile delle sue azioni, che fa da bersaglio a terroristi perché è una persona e quindi può essere colpito al cuore, eccetera. Ecco, questa metafora ha un grado di realtà estrema nell'ambito dell'Ottocento giuridico, o perlomeno la viene ad acquisire, come vedremo, perlomeno in Italia, con una certa gradualità, ma con un processo abbastanza ben delineato. Mentre viceversa, se non la totalità, perlomeno la stragrande maggioranza della cultura giuridica pre-rivoluzionaria, non condivide affatto questa immagine, o perlomeno la percepisce in maniera molto sfocata. Dal punto di vista istituzionale, tutti gli stati italiani d'antico regime si pongono come delle periferie gravitanti attorno ad un centro, cioè come delle nebulose di civitates, comunità territoriali, feudi, corpi intermedi, enti funzionali vari, storicamente aggregati attorno ad un certo polo dominante, costituito da un princeps o da una civitas o da un ordinamento cittadino. Uno dei tasselli che compongono l'ordinamento complessivo è fornito di una individualità storica propria che continua a conservare indefinitamente, pur riconoscendo l'egemonia politica del centro. Altro elemento importante, il diritto romano costituisce ancora il tessuto giuridico connettivo di tutta la penisola, come d'altra parte di tutta l'Europa, cioè vige ovunque come diritto comune. E il principe, perlomeno fino all'ultimissimo scorcio del Settecento, non pare neppure sfiorato dalla idea di poterlo sostituire integralmente con un diritto statale proprio. In queste condizioni non stupisce che la prassi giuridica ignori, perlomeno nel suo lavoro quotidiano, la nozione per noi intuitiva di Stato-persona. E in genere invece rappresenta l'ordinamento territoriale come una consociazione di enti. Questa è almeno, credo, la sensazione abbastanza precisa che si ricava studiando la giurisprudenza dei grandi tribunali italiani d'antico regime del 6-700, che poi è in qualche modo la forma che il ragionamento giuridico assume per eccellenza in quest'età, dove la dottrina ha perso molta importanza, la dottrina accademica ha perso molta importanza e dove il giurista è diventato essenzialmente un giudice statale, un funzionario del principe. Il diritto romano comune, che continua a costituire la materia prima del lavoro quotidiano del giurista, non registra nel suo lessico alcun termine capace di surrogare esattamente il nostro termine concetto Stato. Esiste res publica, certamente, ma a parte il fatto che essa indica una res, ovviamente, non una persona, c'è anche il fatto che, secondo un'applicazione risalente ai giuristi medievali, il termine viene riferito indifferentemente sia alle singole civitates, sia alle singole cellule territoriali che compongono l'ordinamento, come anche all'ordinamento generale nel suo insieme. Cioè è un termine privo di univocità, che non indica il tutto, può indicare, anzi generalmente indica prevalentemente, le singole parti. Inoltre poi res publica, vabbè, questa è una considerazione più tecnica, non veicola affatto l'idea di un soggetto titolare di potere di comando, ma attribuisce solo all'ente di cui si predica certi privilegi analoghi a quelli dei minori, per esempio come la restitutio in integrum o il foro speciale. Res publica, dicono i giuristi da sempre, utitur iure privatorum. Ci sono poi moltissimi termini atti ad indicare vari tipi di posizione di potere politico, e sono quelli classici, dominus, princeps, civitas dominans, eccetera, come pure altri termini corrispondenti per indicare l'oggetto di un atto di appropriazione politica, regnum, dominium, imperium, eccetera. Ma quello che sembra mancare è una nozione sintetica di queste due serie di concetti che esprima insieme titolarità del potere e istituzionalità. Il termine stesso Stato, che ricorre frequentemente quando i giuristi si esprimono in lingua volgare, indica sempre un territorio governato, cioè con una univoca connotazione obiettivistica che è comune, diciamo, a un linguaggio anche tardo rinascimentale. La parola Stato, peraltro, è priva di qualsiasi valore tecnico-giuridico, tanto che la cercheremo vanamente nei repertori alfabetici, nei massimari, negli indici analitici delle sentenze redatte in italiano. Ecco, lo Stato dell'antico regime quindi non è che un insieme di enti territoriali, appunto castra, ville, terre, eccetera, soggetto alla sovranità di uno stesso signore o principe dominante. In particolare, ecco, nell'ordinamento toscano, di cui io poi mi sono occupato in maniera specifica lavorando sulla giurisprudenza della Rota Fiorentina, che costituisce il modello più tipico di Stato territoriale a base cittadina in Italia, in questo ordinamento, ecco, i giuristi vedono una sorta di, è un'espressione dell'epoca, confederazione ineguale. Il termine appunto ha tutta una storia, poi può essere fatto risalire perlomeno al basso medioevo, cioè un'associazione di civitates che all'atto della sottomissione hanno perduto la rispettiva sovranità, che poi nel linguaggio del diritto comune è jurisdiction e non è sovranità, naturalmente, perché il termine sovranità non esiste, a favore della civitas dominans, ma mantenendo la loro identità giuridica, i loro organi locali, i loro statuti, eccetera, eccetera. L'immagine quindi che il giurista ci riflette leggendo queste sentenze è quello di un ordinamento pluralistico ancora di carattere medievale, con l'unica differenza che l'oggetto rappresentato non è più l'unum imperium, ma è uno stato superiore non recognoscens, cioè è uno degli ordinamenti particolari che un tempo si integravano nell'ambito dell'unum imperium. Ecco, esso, cioè questo ordinamento territoriale, si pone dal punto di vista formale un po' come un ordinamento internazionale dei giorni nostri, fate conto la comunità europea, ecco. Anche se poi naturalmente la struttura reale di questo ordinamento realizza un grado di coesione enormemente maggiore, non comparabile con quello di un ordinamento internazionale dei nostri giorni. L'accentramento che si realizza all'interno dello Stato territoriale, d'altra parte, non è affatto incompatibile con una configurazione di tipo pluralistico di questa natura, con il permanere di una pluralità di soggetti formali. Il centro si pone infatti nei confronti della periferia come il tutore dei singoli loca subiecta, delle singole cellule territoriali, che sono i suoi pupilli, cioè vi è un'assimilazione dei rapporti centro-periferia a quelli privatistici che esistono, secondo il diritto privato, tra un tutore ed un pupillo. E in questa veste il centro appunto risulta autorizzato a disporre arbitrariamente dei loro interessi. Però il centro non ha fini propri, non svolge un'attività propria, tutta la sua attività è svolta nell'interesse dei pupilli, cioè delle singole, dei singoli tasselli territoriali che compongono l'ordinamento. Il centro, ecco, per fare un esempio, non costruisce le strade, impone ai singoli enti territoriali di manutenere o di costruire le loro strade. Il centro non amministra una giustizia propria, impone ai singoli enti territoriali di continuare a sovvenzionare, a pagare i loro giudici, che magari è lui a designare, è lui a controllare, ma che comunque non sono suoi funzionari. Ecco, questo tipo di rappresentazione che ricaviamo dalla pratica può sembrare incompatibile con una letteratura giuspolitica che almeno dall'inizio del Seicento si sforza viceversa di personalizzare lo Stato, come è noto, e che trova nel contrattualismo il suo strumento concettuale principe. I giuristi pratici però non sembrano affatto imbarazzati dall'esistenza del giusnaturalismo e del contrattualismo, e anzi citano promiscuamente autori giusnaturalisti e autori del diritto comune, a rincalzo gli uni degli altri. L'unità ordinamentale realizzata col patto è presa poi per quello che è, cioè come una semplice metafora, il cui unico effetto reale è quello di giustificare l'attribuzione di tutto il potere al sovrano. Del resto, neppure l'idea di una originaria sovranità collettiva del popolo che sta alla base del modello contrattualista è incompatibile con le fonti romanistiche. La Lex da Imperio, di cui parlano i Digesti, racconta appunto di questa vicenda, cioè di come il popolo romano, un tempo sovrano a se stesso, abbia delegato il suo potere all'imperatore. Ecco, su questa realtà ideologica, da sempre uguale a se stessa, cala dunque la scure rivoluzionaria, che sovverte completamente il volto dell'ordinamento. È vero che anche negli ultimi decenni del Settecento ci sono stati esperimenti notevoli, parlavamo appunto con il professor Vandusca ieri della riforma comunitativa del 1774 di Pietro Leopoldo, che indubbiamente hanno modificato sensibilmente la faccia dell'ordinamento. Però allo stato delle ricerche non risulta che il dispotismo illuminato, ecco, abbia inciso in maniera profonda sulla coscienza dei giuristi, determinando una nuova immagine del potere, una nuova immagine dello Stato. Con l'arrivo dei francesi, già nel triennio 96-99, come si sa, si fa tavola rasa del vecchio pluralismo istituzionale, si elimina la dialettica centro-periferia e vi si sostituisce un ordinamento amministrativo uniforme e unitario per tutto il territorio, creato su basi puramente razionali. Di lì a pochi anni poi sparisce anche il diritto romano, che viene integralmente rimpiazzato dal diritto statale. E lo Stato, concepito ora come unità evidentemente, si pone come un prius rispetto all'ordinamento giuridico stesso, che diviene un prodotto integrale ed esclusivo della sua volontà. Unità organica e volontarismo sono i due elementi centrali che obiettivamente emergono, ecco, dal volto degli ordinamenti rivoluzionari, degli ordinamenti italiani dell'inizio dell'Ottocento. Questa nuova realtà statuale chiede ora ai giuristi a gran voce, in maniera palmare direi, in maniera evidente, di essere rappresentata come persona giuridica, secondo metafore e modelli più radicali e rigorosi di quelli già noti. E l'Ottocento giuridico individua in effetti la sua missione in gran parte in questo obiettivo, cioè nell'offrire una rappresentazione di questo tipo. Questa rappresentazione può essere realizzata naturalmente seguendo diversi percorsi, diversi modelli logici, diverse sequenze intellettuali, a ciascuno dei quali corrisponde un determinato tipo di atteggiamento della cultura giuridica ottocentesca nei confronti dell'età moderna. Semplificando al massimo, ma vivendo questa classificazioncina veramente come una pura e semplice ipotesi di lavoro, si possono individuare, credo, tre modelli fondamentali: quello della sovranità popolare o nazionale, quello che definirei del giusnaturalismo non contrattualista e quello infine storicista o organicista. Esaminiamoli rapidamente, passiamoli in rassegna rapidamente, in maniera separata. Il primo tipo di modello, sovranità popolare nazionale, diciamo così, non è altro che una particolare applicazione del contrattualismo russoviano. Si tratta di una linea di pensiero che, soprattutto in Francia, ha riscosso nel corso dell'Ottocento un successo enorme tra i costituzionalisti, dando luogo ad una vera e propria tradizione intellettuale, che riconosce le proprie origini in certo pensiero rivoluzionario, quello di Sieyès soprattutto, viene elaborata, viene passata al vaglio dal pensiero liberale Constant, si prolunga poi anche nell'ambito dell'Accademia attraverso figure come Pellegrino Rossi o Hellot, fino quasi ai giorni nostri, ecco, con teorici come Esmen o Carré de Malberg. In Italia invece questa sequenza argomentativa non ha trovato molta audience presso i giuristi professionali. Dopo una buona partenza che si è avuta, come vedremo subito, nel corso del periodo giacobino, non è riuscito perlomeno a creare una scuola, a creare una tradizione nell'ambito della dottrina. Diamo un'occhiata, ecco, a una delle prime formalizzazioni di questo tipo di ragionamento, molto bella, devo dire, che è in corso di riscoperta, diciamo, in questi ultimi anni o forse addirittura in questi ultimi mesi, cioè al modello proposto dal primo e per lungo tempo l'unico costituzionalista accademico italiano, cioè da Giuseppe Compagnoni, romagnolo ferrarese, che ebbe a coprire nel 1797 la prima cattedra di diritto costituzionale italiana istituita a Ferrara dalla Repubblica Cisalpina. Il libro appunto che Compagnoni ci ha lasciato, che poi è la raccolta delle sue lezioni, Gli elementi di diritto costituzionale democratico, fino all'ultimo capitolo dedicato, intitolato appunto alla democrazia rappresentativa, si presenta né più né meno come una parafrasi del Contrat social di Rousseau. Secondo Compagnoni, il grande merito del filosofo, sì benemerito del genere umano, sta soprattutto nell'aver denunciato gli errori del contrattualismo tradizionale di marca pufendorfiana e wolfiana, il quale presentava la Costituzione del governo come un contratto tra popolo e principe. In questo modo, nota Compagnoni, lo Stato non viene ridotto ad effettiva unità, restano sempre due sovrani, due volontà politiche, tra le quali nessun giudice potrà pronunciarsi. In realtà, per poter concepire lo Stato come persona unitaria, si deve ammettere l'esistenza di un solo contratto, quello associativo, come appunto aveva teorizzato Rousseau, da cui scaturisce una volontà politica inalienabile. L'inalienabilità del volere sovrano diventa la condizione assoluta per poter configurare lo Stato come persona, o meglio, diciamo, usando il linguaggio di Romagnosi, di Compagnoni, che però è analogo, come corpo politico. Con ciò però non è affatto vero che uno Stato grande non possa in realtà aspirare a porsi come corpo politico. Come Rousseau stesso ha ammesso, la volonté générale, che è la volontà buona, la vera volontà oggettiva del corpo sovrano, non coincide necessariamente con la volontà di tutti. La democrazia diretta è solo uno dei molti modi possibili per trovare la volontà generale, e secondo Compagnoni, che qui dissente radicalmente da Rousseau, non è nemmeno il migliore. Una volta ammesso che il fare la legge non è un creare la volontà generale, dice Compagnoni, ma semplicemente un annunziarla, diventa logico affidare questo dégagement a dei funzionari ufficiosi e fiduciari, il concetto della sola loro capacità, trascelti dai cittadini ad esplorare con maturo criterio quale sia la volontà generale. Direi che con questo tipo di affermazioni ci troviamo già subito in pieno Ottocento. Lo Stato è una persona giuridica governata dai migliori, governata dall'élite dei talenti. Il contrattualismo, con questo tipo di argomentazione, che poi sarà ripetuta ad nauseam dai costituzionalisti successivi, anche se magari formulata con un linguaggio meno datato, il contrattualismo viene tratto fuori dal vicolo cieco in cui l'aveva portato Rousseau, quello cioè della mitica città-stato, e riallacciato alla vicenda dello Stato ottocentesco, che è stato appunto nazionale borghese. In Compagnoni non troviamo ancora quella parola chiave del linguaggio costituzionale ottocentesco, che è organo. Ma in sostanza il concetto c'è già. Le istituzioni parlamentari non svolgono una funzione di rappresentanza in senso privatistico nei confronti del popolo, cioè non manifestano una volontà propria imputandone poi gli effetti a un soggetto diverso, ma sono lo strumento attraverso il quale il popolo, il sovrano, manifesta una sua volontà in maniera immediata. Si tratta, come si vede, di un modello di rappresentanza politica radicalmente diverso da quello, appunto, del pensiero autenticamente democratico, che trova le proprie radici nel 93 e che vede nella rappresentanza un male necessario, un accorgimento da sopportare, no? Per tutti, ecco, citiamo una frase famosa di Vincenzo Russo, giacobino veramente intransigente, del triennio, il quale si rivolgeva al popolo proprio cercando di giustificare le istituzioni rappresentative e diceva: popolo, io non ledo la tua maestà, non insulto l'avvilimento nel quale ti hanno inabissato i tiranni, ma forza è confessarlo, tu non hai ora i lumi necessari per reggere una repubblica nelle difficili circostanze di una rivoluzione. Ecco, per Compagnoni, al contrario, la rappresentanza politica non costituisce affatto con un compromesso con i principi, ma la realizzazione più conseguente dei principi stessi. E la stessa teoria che ora abbiamo esposto, insomma, teoria compagnoniana, viene utilizzata come un'introduzione poi per una esegesi della Costituzione cisalpina, che è la Costituzione dell'anno terzo francese, cioè una Costituzione censitaria, con elettività a più gradi, eccetera, no? Dove ormai la sovranità popolare è diventata una premessa di carattere teorico, ma non esiste più come sovranità diretta, così come si era inteso nel 93. Ecco, rispetto quindi al rapporto con l'età moderna, questa soluzione è totalmente, potremmo dire, discontinuista, no? Tutti gli ordinamenti precedenti all'89, non fondati sul principio della inalienabilità formale del potere sovrano, sono dispotici, non si pongono come corpi politici, sono insomma non stati. Del pensiero giuridico antecedente l'unico che si salva è Rousseau, il cui contrattualismo però a questo punto è divenuto solamente una premessa discorsiva al modello nuovissimo della democrazia rappresentativa, e come tale può essere anch'esso all'occorrenza rimosso, abbandonato. Già i liberali francesi dell'anno terzo sconfessano platealmente Rousseau, cioè celebre intervento di Sieyès durante la discussione della Costituzione dell'anno terzo, dove Rousseau viene accusato di essere il teorico della Re Totale, no? Non della République, e poi naturalmente su Constant, Madame de Staël, eccetera, no? che se la prenderanno tutti con Rousseau. Del pensiero politico dell'età precedente resta però questa idea forza, che il problema della personalità giuridica dello Stato si risolve solo attribuendogli una volontà unitaria. Viene da chiedersi come mai un modello concettuale così elegante e così palesemente conforme agli interessi dell'elite non sia poi riuscito ad attecchire nella successiva dottrina italiana, così come avvenne in Francia. I motivi possono essere diversi, innanzitutto forse perché è un modello che dà troppo spazio all'elite. L'elite italiana dell'inizio dell'Ottocento non si sente ancora pronta a sopportare integralmente il peso del governo. Ha bisogno ancora di appoggiarsi alla vecchia stampella legittimista, alla vecchia stampella costituita dal monarca. Un altro motivo è che i giuristi italiani dell'inizio dell'Ottocento guardano naturalmente all'ordinamento in un'ottica intraordinamentale, cioè dall'interno, dal punto di vista di persone che ci vivono dentro. E da questo punto di vista molti ordinamenti italiani pre-48eschi, pur privi di istituzioni rappresentative e di costituzioni formali, continuano però a porsi palesemente come stati, nel senso forte e pregnante dell'espressione. Ecco, sono monarchie amministrative che non hanno una rappresentanza politica, che non hanno una costituzione formale, ma che hanno una unità, che sono masse dense, insomma, no? Che hanno una forte coesione interna e una forte presa totalizzante, direi, sul diritto positivo. Ecco che in questo tipo di situazione i giuristi cominciano a interrogarsi se la statualità debba essere reperita, debba essere riscontrata in realtà in qualche cosa di più profondo che nell'esistenza di una Costituzione di carta. Già a partire dall'età napoleonica il pensiero giuspubblicista si incammina per altre strade, il cui percorso in vero non è così facilmente tipizzabile come nel caso del modello precedente. Il carattere comune sembra costituito da un generale rifiuto del contrattualismo che si identifica con un volontarismo denso di pericoli. Al tempo stesso, ecco, si cerca da molte parti di rilanciare l'idea di un diritto naturale non più confinato nell'ambito dello stato di natura di cui parlavano i giusnaturalisti, evocato quindi ad essere negato dal diritto positivo. Lo stato di natura del modello giusnaturalista serve semplicemente per essere dialetticamente negato dallo stato di società civile, ma un diritto di natura fondato sulla natura delle cose. Ecco, questa espressione circola molto nel linguaggio dei giuristi italiani della prima metà dell'Ottocento, la troviamo appunto in giuristi filosofi come Romagnosi, ma anche in filosofi giuristi come Antonio Rosmini. Si tratta di un diritto di natura che ha qualche tratto, forse decisivo, di affinità con l'antico diritto naturale della tradizione classica e medievale, un diritto cioè che convive col diritto positivo, che non si contrappone ad esso, ma che sta insieme, che lo sorregge, lo giustifica. In questa prospettiva, e ecco, si tratta di un modello che in qualche modo anche nel corso dell'età moderna non era del tutto stato rimosso dalla dialettica giusnaturalista. Pensiamo al modello fisiocratico, no? Un grande ordine naturale oggettivo costituito da un complesso di leggi che esistono indipendentemente dalla volontà individuale e di cui l'uomo deve tener conto nell'ambito della sua condotta, nell'ambito della sua vita quotidiana. In questa prospettiva lo Stato non viene più presentato come il prodotto di un patto, ma si giustifica per la sua obiettiva funzionalità a soddisfare bisogni sociali. È molto frequente da parte dei giuristi della Restaurazione l'utilizzazione di modelli di storia filosofica o razionale in cui si mostra come l'ordinamento statale costituisca una tappa obbligata e in genere culminante del progresso naturale umano. Il più famoso è quello dell'incivilimento romagnosiano che, secondo il titolo poi originario dell'opera, è l'incivilimento in relazione alla civile giurisprudenza, cioè è un modello che viene elaborato per legittimare lo Stato, per fornire ai giuristi degli strumenti concettuali. Quindi non è semplicemente una retrospettiva storica, ma serve a qualche cosa, serve a uno scopo di tipo giuridico. Romagnosi, muovendo poi da premesse di tipo schiettamente utilitarista, propone uno schema di sviluppo storico cadenzato in varie fasi, in cui a ciascuna di esse corrispondono certe istituzioni ideali capaci di soddisfare al meglio i bisogni di quel determinato periodo storico, i bisogni della società individuata in quel certo momento. La fase centrale di questo processo consiste nel passaggio da quello che lui chiama il periodo della concorrenza al periodo del pareggiamento, ed è appunto la fase dell'affermazione dello Stato come ordinamento unitario su un cosmo ordinamentale precedente caratterizzato da un marcato particolarismo. Secondo Romagnosi, questa transizione dal periodo della concorrenza al periodo del pareggiamento si è già verificata due volte storicamente. Una prima al momento del passaggio dalla Repubblica Romana al Principato Augusteo, che egli considera come vero Stato, come Stato nel senso forte, pregnante dell'espressione. In seguito l'incapacità di Diocleziano di Costantino ha messo in crisi la struttura statuale romana, ha determinato la caduta, che però non è come per Vico una barbarie della riflessione, ma è un errore della storia, e il cursus è ricominciato da capo a partire dall'Alto Medioevo. In sostanza il Medioevo è nell'ambito del nuovo corso il periodo della concorrenza e l'età moderna è il periodo del pareggiamento. l'età moderna come momento d'affermazione dello stato assoluto. Il giudizio sullo stato assoluto è largamente positivo. Col convertire la primazia feudale, scrive Romagnosi, in monarchica prerogativa, il monarca scaricò il popolo da un peso che egli non poteva trarsi di dosso. La rivoluzione in questo tipo di ricostruzione non costituisce più quell'azzeramento della storia che vi avevano visto i diretti protagonisti, ma solo un momento di questa lunga lotta tra vecchio e nuovo che si dipana per tutto il corso dell'età moderna, da cui appunto scaturisce alla fine lo spazio politico, lo Stato, dico, come spazio politico omogeneo e unitario. Ciò che all'Ottocento resta da fare è solo di assicurare questo equilibrio politico. Ecco, l'età contemporanea viene definita da Romagnosi come età della assicurazione. Le costituzioni formali del Settecento non costituiscono la fondazione ex novo di un ordine politico, ma rappresentano la semplice assicurazione che un ordine politico già strutturato, storicamente, funzioni bene e si conservi indefinitamente. Quindi nel suo complesso, ecco, l'età moderna come età di conflitto e di lotta, direi, ecco, non di conflitto e di lotta tra classi sociali, come pensano gli storici della Restaurazione, insomma, pensiamo Guizot, Thierry, no? L'ascesa del terzo stato, la lotta del terzo stato contro la nobiltà, ma conflitto e lotta tra due concezioni dell'ordinamento, una particolaristica e una unitaria. Non tutti gli ordinamenti sono riusciti a superare felicemente questa prova a cui la storia li sottopone, alcuni sono rimasti attardati, per esempio la Costituzione britannica presenta, secondo Romagnosi, l'aspetto di una Costituzione ancora consociativa, ancora particolaristica, e di qui appunto un suo giudizio nettamente negativo. Come pure nettamente negativo e largamente condiviso da una grandissima massa di pubblicisti di quest'età è il giudizio nei confronti della separazione dei poteri di Montesquieu, nella quale si vede in realtà non un artificio costituzionale, no, per far funzionare meglio la macchina politica, ma un modello appunto di stato di stati, di stato consociativo. In conclusione, questo secondo modello di legittimazione della personalità pubblica afferma che lo Stato moderno non si legittima attraverso la volontà di chi ci vive dentro, ma attraverso la sua capacità obiettiva di soddisfare i bisogni sociali dell'umanità. La dialettica tra le varie fasi storiche, no, che vengono riproposte nell'ordine che vi dicevo, surroga la vecchia dialettica stato di natura, stato di società, la quale è rifiutata proprio in quanto per attuarsi, per inverarsi, implica l'intervento di un consenso. Del vecchio modello contrattualista però rimane un elemento essenziale, cioè il fatto che lo Stato è uno strumento rispetto ai fini individuali. Il fine dello Stato è sempre collocato al di fuori di esso, nell'individuo o nella società nel suo insieme. Questa apertura alla storia che troviamo in questi giuristi filosofi d'inizio Ottocento, d'altra parte, non intacca la fedeltà alla tradizione giusnaturalista. Ciò che è fondante non è la storia positiva, cioè la storia, per esempio, su cui costruisce la scuola storica tedesca. Ciò che è fondante è la storia di ragione, è il modello concettuale ideale di sviluppo storico umano. L'ultimo modello, di cui occorre rapidamente far cenno, ha una struttura, direi, meno compromissoria, meno pasticciata, se vogliamo, molto più semplice e lineare. È il modello fatto proprio dai giuristi a partire dagli ultimi 30-20 anni del secolo, cioè quando anche in Italia nasce una vera e propria scuola universitaria di diritto pubblico, soprattutto grazie a Vittorio Emanuele Orlando. In un clima culturale in cui ormai alla influenza francese si è sostituita quella tedesca, ed in particolare quella della pandettistica, la personalità dello Stato viene costruita utilizzando argomentazioni puramente storicistica, attraverso la mediazione di giuristi tedeschi come appunto Gerber o Laband. Lo Stato ora non ha affatto bisogno di giustificare se stesso in alcun modo. Esso trova la sua legittimazione immediata nel suo semplice esistere come istituzione storicamente consolidata ed accettata tacitamente dallo spirito popolare, cioè da quell'insieme appunto di convinzioni collettive che costituisce l'identità irriflessa e pregiuridica del popolo, cioè lo spirito popolare di Savignana memoria. Ciò comporta evidentemente un atteggiamento molto critico, sostanzialmente svalutativo nei confronti delle istituzioni parlamentari che invece nell'ambito degli altri modelli vedevano fortemente valorizzata la loro posizione. La premessa storicista naturalmente costituisce solo un postulato discorsivo per i giuristi, nel senso che i nuovi teorici non hanno nessun interesse a rintracciare le reali origini dello Stato moderno. Nessun giurista della fine dell'Ottocento pensa di trasformarsi in uno storico del diritto pubblico, vero? E perciò appunto essi non ci hanno lasciato in realtà alcuna immagine riflessa dell'antico regime, dell'età moderna, cioè della fase storica in cui questo ordinamento statale si è realmente formato. Come per la pandettistica, il riferimento alla storia costituisce semplicemente un postulato legittimante, uno zoccolo su cui costruire il resto del ragionamento, che comunque è del tutto autonomo ormai dal reale fondamento storicista verbale del costrutto. È invece su un altro piano che si realizza un contatto, direi frequente e importante, tra questa jus publicistica più tarda e l'età moderna, quello cioè dei giudizi di valore espressi continuamente nei confronti del contrattualismo e nei confronti del modello antropologico individualistico che esso veicola. La nuova immagine dello Stato organico si costruisce proprio rovesciando uno per uno tutti i capisaldi su cui si era fondata la teoria giusnaturalista dei secoli XVII-XVIII. I nuovi teorici in particolare non solo rifiutano l'idea assolutamente assurda che lo Stato si fondi su un fortuito accordo di volontà, ma respingono radicalmente pure il concetto che esso sia strumento di fini a lui estranei. Non solo lo Stato non è creato dagli individui, non è un prodotto della società, ma non è nemmeno a loro servizio, e sono invece i singoli che derivano la loro esistenza dallo Stato come realtà originaria e trascendente rispetto alla loro individualità. In tutto ciò, direi, non è percettibile alcun influsso della filosofia idealista, che i giuristi non conoscono o conoscono solo incidentalmente. È un modello che si costruisce in stretta correlazione, direi, rispetto ai fondamenti appunto della scuola storica del diritto, insomma, che riconosce il proprio padre fondatore in Savini, e che poi va avanti per conto suo, ecco, si struttura, matura in maniera del tutto autonoma. Lo Stato totalitario novecentesco trova già qui, come è stato dimostrato in un bellissimo libro recente, cioè Lo Stato immaginario di Pietro Costa, in questo necessario esserci dello Stato, le proprie più o meno lontane radici. Concludendo rapidamente, l'atteggiamento dei giuristi nei confronti dell'età moderna sembra strettamente interrelato a questa tensione verso la costruzione di una immagine unitaria e personalizzata dell'ordinamento pubblico. È in rapporto a questa esigenza intellettuale che la dottrina giuridica prende gradualmente le distanze dal pensiero giuspolitico della modernità, prima abbandonando i modelli contrattualistici di stampo wolfiano e pufendorfiano, cioè quelli più evidentemente artificiali, e poi accantonando anche quello di Rousseau e rinunciando al dogma della sovranità popolare, che in qualche modo è il precipitato storico del contrattualismo. Fino da ultimo, ecco, a respingere il concetto stesso della strumentalità dello Stato per erigerlo appunto in totalità organica. Lo Stato così si è completamente inverato nella testa dei giuristi nel corso del secolo, da semplice nebulosa di enti che era alla fine dell'antico regime, è divenuto una vera e propria realtà totalizzante, tanto che oggi nessuno sente il bisogno di giustificare in qualche maniera la presenza dello Stato dal punto di vista giuridico. Soltanto nel corso degli ultimi decenni, in Italia, a partire dalla Costituzione Repubblicana, si sta in qualche modo, comunque i giuristi di diritto pubblico stanno in qualche modo cercando di recuperare una visione pluralistica dell'ordinamento, distinguendo tra quello che viene definito uno Stato comunità e uno Stato persona. Lo Stato comunità comprensivo di un complesso di protagonisti istituzionali, tra cui vi è anche lo Stato persona, enti territoriali, partiti, sindacati, eccetera, lo Stato persona come uno di questi protagonisti compresi in questo più vasto ordinamento di carattere obiettivato. Lo Stato persona come Stato amministrazione, come Stato puramente amministrativo. Ecco, questo ridimensionamento a cui il concetto è stato assoggettato soltanto da pochi decenni, soltanto a partire da pochi decenni, costituisce un processo in realtà nuovissimo e ancora tutto da giocare nell'ambito della giuspubblicistica contemporanea, che è ancora fortemente influenzata da questa centralità dello Stato come ente totalizzante. Io avrei finito. Tante grazie per la sua relazione e adesso bitte Wortmeldung, wenn jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Wann müssen wir Schluss machen? Abbiamo mezz'ora. Bitte Wortmeldungen. Sì, prendo la parola io perché naturalmente mi rendo conto della difficoltà anche di affrontare un giurista, no? Nel senso che loro hanno questo particolare modo di presentare delle cose che interessano a tutti e che tutti studiano in maniera molto privilegiata, insomma. E quindi mettono molto in soggezione gli altri. Ecco. Non era il mio intento. No, ma è oggettivo, è la forza del diritto, della scienza giuridica e del ruolo che la scienza giuridica ha potuto svolgere nei secoli e continua a svolgere fino ad oggi. Cioè dimistificazione. No, dimistificazione, di sopraffazione, mediante la mistificazione. Ma questo è molto importante ed è per questo motivo, sostanzialmente, che a me è parso di inserire nel nostro seminario una relazione sul diritto, sul modo in cui i giuristi hanno contribuito e in maniera primaria alla formazione dell'Ottocento, come interessa a noi. Credo che questo sia davvero il cuore del problema. Io credo che Manoli abbia dato una splendida, per quel che pare a me, insomma, uno splendido scorcio, no? Di una vicenda che è molto complessa e che effettivamente, come lui ci ha detto, è poco studiata in modo sistematico. E quindi io gli sono molto grato di questo. D'altra parte la scuola da cui lui viene, che è la scuola fiorentina, che fa capo a Paolo Grossi, è certamente benemerita in Italia, e non credo solo in Italia, per questo sforzo straordinario di attenzione, di ricostruzione delle tematiche che hanno a che fare con la realtà e soprattutto con la teoria dello Stato moderno, soprattutto nella sua ultima fase. Quindi non solo Costa va ricordato, ma certamente anche grande amico Fioravanti, che tra l'altro queste cose le ha fatte anche per la Germania con il suo ottimo libro e in modo direi meisterhaft anche per i tedeschi. come d'altra parte viene riconosciuto dalla storiografia giuridica tedesca. E quindi questo andava detto. Ecco, detto tutto questo, che però non è naturalmente, secondo me, solo affatto esornativo, ma è sostanziale, insomma, come valutazione del lavoro vostro, insomma. Devo, appunto, adesso vorrei, anche se faccio fatica, perché bisognerebbe rifletterci sopra, insomma, i giuristi hanno questa capacità e questa fortuna di poter ragionare con una logica che è levigata, insomma, dai secoli, che è levigata dalla forza sociale e culturale che la loro disciplina ha avuto nell'età moderna, nell'ambito delle scienze sociali. Quindi effettivamente io personalmente, che pure ho una formazione, una lontana formazione giuridica, trovo difficoltà a mettermi a confronto con loro. Ecco, cercherò di porre a Mannori qualche considerazione di carattere forse riduttivo rispetto alla, a mio avviso, troppo lucida forse, no? Ricostruzione compiuta. Forse il problema di fondo sta all'inizio, come sempre, e cioè nella pretesa, che è stata da lui non a caso, surrettiziamente, presentata come esigenza metodologica, questo naturalmente spiazza completamente il problema, di separare il giurista pratico, no? Il giudice, l'uomo di tribunale, il funzionario, dal giurista teorico, dal giurista filosofo, dal giurista che riflette, che fa teoria, e anche direi dal giurista politico, perché non bisogna dimenticare che sono stati giuristi a far politica, in antico regime come in regime moderno. E l'hanno fatta niente affatto, secondo me, come ha detto Mannori, come un lavoro a parte, come nei ritagli di tempo, come hobby. L'hanno fatta invece con piena consapevolezza. E anzi, forse il loro essere giuristi tecnici era il presupposto indispensabile per poter fare politica. Allora, se questa distinzione di partenza fra il giurista pratico e il giurista teorico non è così netta come ci è stato proposto, probabilmente diventa anche più problematico sostenere questa dicotomia così radicale fra un antico regime che non si pone il problema dello Stato dal punto di vista giuridico, dello Stato come unità di potere riconosciuta, che vuole consenso e che lo ottiene, e invece un Ottocento moderno che solo a questo mira. Io credo che questa dicotomia sia forse un po' troppo rigida e che invece vada recuperato il ruolo importante che anche dal punto di vista giuridico ha avuto, io direi veramente, durante tutta la Neuzeit, come noi l'abbiamo ormai, una immagine unitaria è forte e dotata di potere centrale e unitario dello Stato. Ecco. Da questo punto di vista io formulerei la questione come d'altra parte ho cercato di fare da un po' di tempo in qua, in un altro modo. Cioè, a me pare che l'antico regime sia semmai caratterizzato dalla coesistenza, anche in termini giuridici, e con accettazione e consapevolezza teorica e pratica da parte dei giuristi, di due elementi fondamentali della statualità, cioè dell'unità del potere, che sono quello della sovranità, che secondo me è presente in maniera forte nella teoria e anche nella pratica giuridica, perché i funzionari dello Stato, giuristi, sono tali in quanto, bene o male, servono a realizzare, a allargare, a sviluppare sempre di più proprio il tema della sovranità, e dall'altra parte invece il principio consociativo come elemento costitutivo e costituzionale di una realtà politica che certamente ancora si definisce in termini propri, autonomi e diversi da quelli che saranno poi propri dell'Ottocento. Se questo è vero, allora credo che anche i modelli che Manori ci ha presentato, che sono molto convincenti in sé, forse potrebbero, come dire, giocare ulteriormente, no? E anche forse in modo più ricco rispetto all'antico regime. Cioè, mi pare che arricchendo, insomma, l'antico regime di una, per quel che riguarda il suo contenuto statale in termini giuridici, forse anche la vicenda ottocentesca potrebbe acquistare una maggior complessità e anche una maggior ricchezza e quindi una maggior utilità per noi. E allora il discorso del moderno, cioè come si atteggiano i giuristi dell'Ottocento rispetto al tema della modernità, verrebbe fuori, certo forse più confuso e meno drasticamente definito, però forse anche più convincente. Tutto questo però è stato detto chiaramente con la più grande stima e riconoscenza per la relazione che ti sei portato. Posso rispondere prima? Ah no, è lo stesso. No, è lo stesso. Comunque no, se è un intervento... No, io trovo che nella stessa discontinuità, voglio dire, della esposizione di Manuel, la quale riflette, ma con un certo artificio, lo stato degli studi. Io non sono uno studioso di storia, diciamo, del diritto, però qui c'è una precisa intenzione. Innanzitutto a me pare che c'è un certo capovolgimento, vale a dire c'è la scelta di partire dalla posizione di Orlando, dandola come posizione vincente, con una definizione, diciamo, piuttosto schematica delle ragioni per le quali non solo essa vince, ma essa è elaborata. Diciamo pure Orlando, non è solo Orlando, perché Orlando nasce insieme con gli altri due siciliani. Le opere sono contestuali, tutti e tre le hanno scritte insieme, Scaduto e Mosca. E si tratta di un'operazione politico-culturale che è fatta nello stesso momento, siamo tra il 1882 e il 1885, partono da Palermo, si sono laureati, diciamo, hanno delle storie personali leggermente diverse ma confluiscono. C'è il problema di definire la questione del diritto ecclesiastico e il problema naturalmente della superiorità dello Stato nei confronti della Chiesa, per quello che riguarda c'è il problema di Mosca, con la teorica dei governi che viene nello stesso momento, diciamo, a scardinare, o tenta di scardinare, con la sua teoria della classe politica, tutta la tradizione di tipo costituzionalistico di un certo versante. Siamo con Crispi. Cioè, lì abbiamo la costruzione teorica dello Stato Crispino, nel momento nel quale esso poi concretamente si esprime. Si tratta poi di vedere come questo stesso processo è riuscito a crescere dopo. Qual è l'altra faccia dell'osservatore? Diciamolo pure, insomma, il dato centrale del problema che i giuristi si trovano ad affrontare nei decenni immediatamente precedenti e che continua praticamente fino alla guerra mondiale e tutta, è il problema del positivismo, cioè il problema delle scienze sociali e soprattutto dell'antropologia. Cioè, e sono soprattutto i penalisti in questo caso, non sono i giuristi. Che il diritto penale è completamente. Ora, siccome le scuole giuridiche in realtà c'è da domandarsi, in effetti, cosa che Grossi ha peraltro tentato di sbozzare su un altro versante, cioè quello sul diritto di proprietà, per certi aspetti, ma che naturalmente vedono uno strettissimo intreccio di questi profili, che peraltro non è che sono così nettamente separati neppure nella loro storia. Quindi c'è il problema di riuscire a capire come collochiamo personaggi, da un lato come Angelo Maiorana e dall'altro lato come Bonfanti. Mi riferisco tutti a contemporanei di Orlando. Se andiamo a guardare oltre alla monografia su Orlando di Ciamperotti, l'altra, per esempio, cioè quella sulla guerra libica, l'atteggiamento dei giuristi, noi ci troviamo già di fronte a un intreccio che riguarda il diritto internazionale, nella quale la refluenza sul diritto pubblico è fortissima e nella quale le differenze di scuola, di atteggiamenti, di profili, perché poi il diritto internazionale, per ovvie ragioni, ripropone naturalmente non soltanto il problema della sovranità dello Stato, eccetera, ma tutto il discorso originario del rapporto tra giornalismo e contrattualismo. Questi ci devono andare dentro. Però all'interno ormai di una concezione della società e dell'uomo che è stata fortemente manipolata dalla operazione positivistica, come dato complessivo. Quindi sotto questo profilo il tipo di educazione e di formazione che naturalmente questi hanno, la presenza massiccia delle scienze sociali all'interno della preparazione del giurista, per quello che riguarda gli stessi studi che fanno nelle università negli anni 80, negli anni 90 e dopo. E da questo punto di vista la questione della romanistica, che non è secondaria nei suoi movimenti e nelle sue evoluzioni. Da un lato c'è non più soltanto ormai Savigny, ma c'è Mommsen, Staatsrecht, e insieme con questo naturalmente ci sono tutta un'altra serie di processi, ci sono i conflitti che ruotano attorno all'insegnamento di Bonfanti e alla contestazione che poi della lettura particolare che Bonfanti fa della stessa storia romana e dei processi che lo riguardano viene fatta all'interno di questa parte. Quando alla questione dello Stato, è vero che noi abbiamo naturalmente la definizione orlandiana, ma senza la operazione che poi risulterà per varie ragioni vincente del gruppo che chiamiamo dei nazionalliberali, voglio dire, a cui appartiene Gioacchino Volpi, appartiene anche Anzilotti, e soprattutto che riconosce in una qualche misura un personaggio, diciamo, significativo nell'Ercole con i suoi lavori su Machiavelli e la problematica relativa. Io credo che al di là naturalmente dell'influenza sul giurista pratico, che qui non so nulla, ho là un quadro in sostanza di una problematica di questo genere in cui dico, al di là del successo, cioè di chi vince le cattedre universitarie, se sono allievi di Orlando o no, e naturalmente al di là di questa linea vincente per quello che riguarda alcune forme di teorizzazione, io ritengo che naturalmente il quadro si presenti sotto questo aspetto sostanzialmente più complesso. E qui sono d'accordo e concludo su questa osservazione con quello che diceva, perché sono assolutamente certo che se naturalmente noi guardiamo questo scorcio dell'Ottocento, questo trapasso tra Otto e Novecento, in questa maniera, diciamo, con un ventaglio più ampio delle alternative che si giocano, poi la rappresentazione della vicenda precedente, compresa quella settecentesca, ci apparirà sostanzialmente meno schematica. Ci sarebbe naturalmente molto da dire nel dettaglio, poi magari possiamo scambiarci delle valutazioni insieme per quello che riguarda che cosa è stata monarchia amministrativa, che cosa è stato da questo punto di vista Compagnoni, il Compagnoni che parla allora e il Compagnoni non più Giacobino, ma Giacobino lo è stato. Cioè, voglio dire, qui ci troviamo di fronte a una serie di storie personali che naturalmente poi si esprimono all'interno di questa vicenda. E poi, non lo so, avrò più familiarità con la tradizione, diciamo, storico-giuridica meridionale. Rimane il problema, in qualche misura, di riuscire a capire come all'interno, per esempio, della stessa monarchia amministrativa borbonica, con personaggi come Tommaso, studiato naturalmente, dicendo questo c'è dietro, fondamentalmente pagani e stranieri, i quali sono comunque, all'interno di questo quadro restano fuori. Se ce ne mettiamo dentro sembrano dei massi erratici, però delle cose che non si controllano e che naturalmente rischiano di sfasciare tutto. Perché, diciamo, le ragioni e le motivazioni stesse della loro riflessione, i modelli di tipo giuridico che esse portano avanti, non sembrano, come dire, non sembra facile iscriverli in questo quadro. violenza di questa città. No, lei è un attacco, cerco, no, che poi vabbè, a questo punto devo difendere non solo la mia modesta e secondaria persona, ma il prestigio di una disciplina. Dunque, primo punto, separazione giuristi pratici, giuristi teorici. Qui evidentemente non sono forse stato chiaro, ma è esattamente l'inverso di quello che del tipo di rappresentazione che tu hai ricavato. Il modellino di rappresentazione consociativa dello Stato antico prima che vi ho proposto, io l'ho ricavato da un anno e mezzo di ricerche a cui mi sono dedicato, mettendo completamente da parte tutte le fonti di carattere teorico e lavorando esclusivamente su fonti giurisprudenziali, e in particolare sulle fonti giurisprudenziali della Rosa Fiorentina, che è uno dei 7-8 grandi tribunali dell'Italia d'antico regime. Cioè, questa rappresentazione consociativa è proprio quella dei giuristi pratici, non è affatto quella dei giuristi teorici. Il rapporto è inverso, lo so bene che i giuristi teorici hanno un tipo di rappresentazione che non è più consociativo, che perlomeno tende all'unità, sono contrattualisti, sono i grandi teorici della sovranità dello Stato francese, sono Loiseau, Ledré, Baudin, insomma, tra virgolette, prima di loro. Tutto questo sta bene, ma direi, qui in un certo senso ti ritorco contro di te la tua obiezione, che forse è proprio il vostro limite di storici del pensiero puramente politico di fermarvi a una analisi dei padri fondatori, ecco, a un'analisi delle grandi figure. Dico liberissimo di farlo, ma non mi accusare di farlo a me, perché io proprio non lo faccio. Cioè, questa rappresentazione consociativa sotterranea è una rappresentazione che aderisce strettamente al diritto comune. Tutti gli ordinamenti d'antico regime sono ordinamenti a diritto comune. Se scendiamo al di sotto della corteccia dove lavorano i grandi progettisti dello Stato Nuovo, noi ci troviamo un enorme pack che è quello del diritto comune, che è quello di una letteratura, di una giurisprudenza che lavora con concetti che non sono quelli elaborati dall'elite che sorregge il principe nel suo sforzo di unificazione. Quindi è proprio tenendo conto dei giuristi pratici che si ricava il tipo di rappresentazione che io mi sono permesso di fornirvi e che in ogni caso va bene, vi vendo con beneficio di inventario, perché le ricerche sulla giurisprudenza dei grandi tribunali sono, e in genere sulla dottrina del tale diritto comune nel campo jus publicistico, sono veramente soltanto appena lì. Secondo punto, i giuristi di grande spicco dell'antico regime si sono battuti per un'immagine forte, questo non c'è dubbio, giusnaturalisti, teorici dello Stato francese, i partigiani dello Stato assoluto, e hanno elaborato questo concetto nuovissimo che è il concetto della sovranità. Su questo siamo completamente d'accordo. Ma qui c'è un equivoco: sovranità non vuol dire automaticamente personalità dello Stato. Sovranità indica un tipo di statuto funzionale del potere che il Medioevo non aveva conosciuto, qua siamo perfettamente d'accordo, ma non significa il progetto di un nuovo modo di essere del soggetto pubblico. La sovranità è un concetto che interviene a innovare la tradizione sul piano delle funzioni, ma non sul piano dell'organizzazione, non sul piano dell'essenza dei protagonisti politici. La sovranità è perfettamente compatibile con un ordinamento di tipo consociativo. La figura del tutore e del pupillo, ecco a cui vi riportavo, che emerge proprio continuamente dalla giurisprudenza, è questo. Il tutore è sovrano nei confronti del pupillo, ma non è un soggetto che abbraccia anche il pupillo, è un soggetto distinto dal pupillo. Anzi, il suo potere trova la sua giustificazione proprio in questa intersoggettività. Proprio nel fatto che lui è sovrano in quanto è diverso dal pubblico. Sovranità non significa personalità giuridica. Questi due concetti hanno due storie che occorre cominciare in qualche modo a separare. la sovranità si fonde con la personalità giuridica in un momento particolare, io credo, che è quello della fine del Settecento. Nel momento in cui si afferma il concetto dell'amministrazione diretta, di quella che Kelsen definisce l'amministrazione diretta. Uno Stato che non si limita più a comandare, ma uno Stato che fa. Uno Stato che, l'esempio delle strade, che poi è un esempio di Kelsen, che io vi riportavo, costruisce lui stesso le strade e non comanda alle singole cellule territoriali di procurare la manutenzione dei singoli tratti di strada che giacciono sul territorio di ciascuno. È questo il momento in cui la sovranità, concetto già maturato nel corso di tutta l'età moderna, si fonde, si aggancia al concetto di personalità giuridica. Ma non svolge quella funzione. No, non svolge quella funzione. È un'amministrazione puramente indiretta. È un modello di amministrazione indiretta. È un modello di amministrazione per comandi. È un modello di amministrazione per comandi. È vero. Certo, ma questo accade in tutti gli stati d'antico regime. Questo è assolutamente indubbio, che ci sia una componente tecnica nell'ambito delle burocrazie degli stati d'antico regime e che questa burocrazia tecnica svolga un ruolo estremamente rilevante. Su questo credo sia perfettamente ricevuto. Ecco, ma questa tecnica funziona in un'altra maniera. Il fisco è una persona giuridica di diritto privato. No, ora mi dispiace che il dibattito si anima in questa maniera. Però ecco, io credo questo comunque, che non esista una saldatura perlomeno necessaria tra sovranità e personalità. Ecco, due concetti che certamente si associano, possono anche andare insieme, ma non coincidono necessariamente. A proposito appunto dell'osservazione del professor Giannizzo, può darti che questo problema ci sia un tantino di retrospezione del modello orlandiano. Però non dimentichiamoci che questa esigenza teorica di unità è fortissima già e si manifesta, direi, con metafore diverse, ma con uguale significato a partire dalla rivoluzione francese. Leggiamo CIS, il problema della rivoluzione è costruire uno Stato unitario. Tutto sarà perduto, dice CIS, quando le singole cellule territoriali, municipi, distretti, eccetera, si porranno come delle repubbliche autonome rispetto al tutto. E la teoria del governo rappresentativo poi è questo. È lo strumento per realizzare uno Stato unitario partendo da una realtà che fino a ieri era stata una realtà di dove ciascuna delle cellule che componevano l'ordinamento complessivo si considerava una nazione, una patria. La rivoluzione, uno degli elementi poi scatenati, se vogliamo, della rivoluzione, è proprio questo, cioè è proprio questa spinta centrifuga che nel biennio 87-88 a un certo punto esplode come conseguenza dell'indebolimento. Giustissima la ricostruzione che è stata data della figura di Orlando e del contesto in cui si colloca, che costituisce un'integrazione in qualche modo della mia relazione, di cui naturalmente ringrazio il professor Giannizzo. Però non sono del tutto d'accordo, ecco, sul giudizio che il professor Giannizzo ha ricavato, cioè che questa immagine dell'Ottocento è un'immagine costruita proiettando all'indietro un qualche cosa che si è verificato solo da ultimo. Questa tensione esiste, è molto forte in tutti i momenti del secolo, anche se sono le metafore che cambiano, sono i modelli concettuali, ma esiste, anche se certamente in maniera meno palmare, anche nelle fasi intermedie. In particolare, ecco, su Compagnoni una precisazione, visto che l'abbiamo assunto come modo di pensare, il compagnone che io vi ho esposto ora è quello del 1797, cioè è il compagnone giacobino. Sono gli elementi di diritto costituzionale democratico pubblicati nel 1796. Ecco, ma quando è stato? Ah, ecco, lei considera... Ah, d'accordo, d'accordo. No, va benissimo. Va benissimo. Certo. Ecco, no. Perfetto. No, scusi. Non avevo capito. Perfetto. Ma io infatti, ecco, cercavo, contrapponevo appunto Vincenzo Rossi. Ecco, solo dico, la fine di questo giocabinismo, diciamo, comincia presto, perché comincia nel 97, insomma. Ecco, quindi il giacobinismo dei giacobini italiani, il giacobinismo vero, il giacobinismo autentico, dura veramente le spalle della terra, ecco. E poi arriva un altro tipo di modello e prende campo subito. E è il modello dello Stato rappresentativo, è il modello dello Stato persona, è il modello dello Stato unitario. La capacità di potere e di concezione dello Stato del riformismo tardo sul cosiddetto se la domanda di questa questione di individuare una migliore parola che entra fisicamente nella casa della persona che pone il problema sostanzialmente della classificazione dell'aggiunto del potere d'oro. La stessa riforma comunitaria di cui si è parlato, anche quella teresiana, anche quella piemontese. Se poi vi si ricorda che naturalmente questo qui non fa parte del problema di cui stiamo parlando, allora noi facciamo una specie di strano tipo. Quando ci fa comodo il dato storico, lo ricordiamo a supporto del problema di un elemento del genere. Allora ci fa comodo la risposta. E dico questo non lo faccio per fare una critica, lo dico perché è un problema generale della condizione mondiale in ordine al rapporto. Non nel modo in cui è definita rivoluzionalmente la parola, non in cui è praticata la rivoluzione. Sì, sì, no, d'accordo. Non devo riuscire a capire queste cose qui. Se mi bloccate, dicendo, ah no, abbiamo un problema di questo genere, No, questo è una competenza dello storico sociale, non è una, cioè, scusate, forse c'è stato un equivoco. Io qui ho cercato di esporvi una rappresentazione del potere dei giuristi. Il problema di come vadano le cose realmente, di come nasca lo Stato, questo non è mio punto. Che il fisco è una realtà enorme, lo so bene, però so bene anche che il diritto comune lo definisce come una persona giuridica e il diritto privato. Io questo non posso niente, non ci posso fare nulla. Lo devo accettare. No, io credo. Io sono stato invitato, quindi vengo a portare questo contributo, ecco, su questo piano, cioè su un piano di formalizzazione assoluta. Io non pretendo, come diceva Rousseau, insomma, mettiamo da parte tutti i fatti, ecco, parliamo di diritto. I fatti vanno per la loro strada e io non mi ritengo assolutamente competente a segnare un punto. Ecco, questo. Prima di ringraziare veramente cordialmente per questa vivace discussione fra il relatore e i due correlatori, permettetemi una umile domanda a favore di noi poveri analfabeti stranieri. Cosa è adesso giusto di dire regime, come dice Maloni, o regime, come dice Schiera? Io ho sempre detto regime in analogia al ancien regime. Beh, però siamo liberi, è una delle libertà che ci sono concesse.